בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti, benvenuti nella nostra frequenza. Questa è Blu Radio Veneto, sono le 21:02 minuti primi e inizia Blu Time Live, quindi l'appuntamento del martedì sera che vede protagonista la musica acustica live qui in diretta dai nostri studi di Blu Radio Veneto. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e un'altra da chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero da Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera, Agostino sarà domani. Sì, buonasera Flavio. Sì, mi chiamavi Agostino, era già finita qui in partenza. Vabbè, Flavio, i nostri ascoltatori, allora, scusate ma capita qualche questa discrepanza. Sì, non solo questa sera, anche altre, quindi vabbè, chissà come chiama Agostino il giovedì. Chiamerò Flavio. Non oso pensarlo. Benissimo, allora ritorniamo, buona serata a tutti, questo è Blu Time Live. Gli ospiti di questa sera non hanno fatto molta strada, sono proprio nostri conterranei, quindi abitano qui nei dintorni di Padova, quindi diamo subito il benvenuto a loro. Maurizio, mi hanno proibito di farti dire il nome. Esattamente, ecco, quindi lo dici te. Quindi lo dirò io. Allora diamo il benvenuto a Emma Ieutica. Eccoli qua, buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Allora, siete Thomas e... adesso ve lo dico subito, Thomas e Matteo, che sono, diciamo, i due protagonisti di questa sera, mentre salutiamo a distanza Roberto, Luca e Mirko, che sono anche loro protagonisti maieutica, però naturalmente nella versione acustica serale, oltre che far ascoltare dei brani da CD, ci faremo accompagnare dalla chitarra di Matteo per sentire la voce di Thomas per quest'ora e mezza di trasmissione, dove potremo sentire quello che è il contenuto dell'ultimo lavoro dei Maieutica, che si intitola Logos. Ma allora ragazzi, iniziamo subito dalla prima domanda. Una domanda che si fa in prima superiore, forse al liceo da qualche parte. Cos'è la Maieutica? Professore, non ho studiato. Ah, benissimo. Lo sai. Allora, so invece che nel vostro disco, subito chi apre la copertina e leva il CD dall'incastrino di plastica, trova subito una spiegazione abbastanza approfondita di quello che è la maieutica, che sarebbe stata un po' alla Socrate, quella che era l'arte della levatrice, in questo caso però l'arte di quello che fa in maniera che uno abbia una propria idea, quindi che tiri fuori le parole, esatto, per definire la propria idea che è dentro. Sì, Socrate lo faceva col dialogo con i suoi allievi, noi invece abbiamo trasportato tutto con la musica, tentiamo, non con i nostri allievi, con i nostri fans e ascoltatori, di fare lo stesso lavoro che provava a fare Socrate, appunto di riuscire a tirare fuori le convinzioni e le idee dell'ascoltatore, appunto. Allora, Maieutica non vuole essere definito un gruppo hard rock, prog rock, ma in genere vuole essere definito un rock pensante, no? Quindi un gruppo che fa del buon hard rock, permettetemi questo, però in una forma, come dire, di pensiero, cioè invita a pensare, perché le canzoni poi sono appositamente scritte e cantate appunto in italiano, e questo permette anche agli ascoltatori di poterle seguire meglio, di capire quella che è la densità del pensiero offerto al pubblico. Sì, infatti non riuscivamo a trovare, siccome purtroppo in questo mondo bisogna sempre etichettarsi, perché sì, sennò non si riesce ad andare da nessuna parte. Solo che iscrivendoci a tanti concorsi, facendo tante date, non riuscivamo mai a riempire quel tassello sul genere musicale. E alla fine, insomma, ci siamo trovati una sera, ci abbiamo pensato per bene, sì, pensa, allora abbiamo detto rock pensante a questo punto. E rock, quindi abbiamo risolto pensante, il problema. Quindi un po' un antigono di quello che poteva essere l'hard rock, quindi rock pesante, e quindi in questo, esatto, caso rock pensante, inserendo anche una S. Esatto, e quindi sì, chiamiamola all'inglese il thinking rock in questo caso. Bene, molti si dimenticano anche sì, quella N, quindi capita molto spesso che veniamo nominati come rock pesante anziché rock vabbè, pesante, comunque avranno modo anche di capire gli ascoltatori, magari i nuovi, chi non conosce ancora il gruppo dei Maieutica, di che musica stiamo parlando. Allora, per identificare la musica, prima di far intervenire anche Maurizio, che ve ne dirà tantissimi riguardo alla vostra musica, lo vedo già preparatissimo e lanciato. Sì, soprattutto dalla copertina, già dalla copertina del disco sì, poi, si aprono tanti orizzonti. E poi appunto ne parleremo. E allora direi, per far sentire anche i nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando, allora direi di inserire subito il primo pezzo della serata. Si intitola, un titolo molto semplice, Sinestetica Apparenza. Eccoli qua, a Blu Radio Veneto, in Maieutica. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Sinestetica appare, io, io, io non penso niente. Radio Veneto. Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato il primo brano dei Maieutica qui a Blu Radio Veneto, un brano dal loro CD che si intitola Logos. Questa è Sinestetica Apparenza, che è il coraggio poi alla fine di guardarsi allo specchio rivalutando la propria apparenza e rendendo possibile anche la convivenza con se stessi, quindi lo sconfiggere in continuazione il proprio io nella lotta interiore. Ma dove finisce il mare, Maieutica? Voi che gridate così forte, dove finisce il mare? E poi, è anche una canzone che si fa... Ci fa cantare, va dietro, eh? Si va dietro molto bene. Soprattutto con questo... Non riesci a tenere fermo il piede. No, non riesci a tenere fermo il piede, è vero. Difatti adesso me lo lego. Si fa cantare allora. Bene anche all'inizio, poi alla fine c'è un'esplosione... chitarre distorte, qui il chitarrista l'abbiamo proprio davanti. Io prima avevo chiesto a Thomas, ma come si mette il chitarrista quando fa sto assolo? Lui, Thomas, mi ha detto a seconda della, se va più in alto lui si mette in una certa posizione, sì, cioè, sì, a seconda di quanti tavoli, di quanti rialzi ci sono nella location, io vado più alto possibile. Esatto, sì. Proprio alla Bon Jovi, proprio, ecco, alla Bon Jovi, sopra le montagne, sopra le... ai concerti all'aperto infatti lui arrampicarsi sugli alberi, sì, è un allora casino. Ti conviene, scusami se intervengo, affittare uno di quei lift, di quegli ascensori che usano i Kiss, no? Esatto, ci stiamo lavorando. Dobbiamo sottolineare una cosa, questo è un pezzo che proprio dà l'aspetto della banda live, della band live. Voi siete live, cioè assolutamente, amate benissimo a suonare dal vivo, e già questo primo pezzo che era il singolo si sente la vostra attitudine a suonare continuamente dal vivo. Sì, la nostra dimensione è di sicuro è quella dal vivo, siamo nati dal vivo, abbiamo iniziato veramente subito a far concerti, quindi abbiamo sentito subito che quella era la nostra dimensione. Poi il disco bisogna farlo, certo, il disco bisogna farlo, però cioè, l'attitudine è fondamentale anche quando si fa un disco. Dimmi. No, tra l'altro appunto non siamo un gruppo che prepara prima i pezzi a tavolino e dopodiché li registra e li eternizza su disco. Noi partiamo proprio appunto da un contesto live, in sala prova. Quindi li provate live? Riproviamo fino a quando tutti i pezzi non sono ben oliati e ben funzionali, dopodiché è pronta per essere registrata. Quindi quello che ascoltiamo adesso è solo una sinestetica apparenza, esatto. In questo caso. Ma torniamo un attimino a bomba a quello che è il significato, perché io ascoltando il vostro disco lo definivo un po' un concept album. In realtà è un concept pensiero, come lo definivi tu prima, Tom. Sì, infatti noi ci sarebbe piaciuto forse all'inizio fare un concept, però non era la nostra intenzione. Poi però alla fine ci siamo accorti che un filo logico, anche se era sottile, c'era. E infatti noi lo chiamiamo questo concept di riflessione, appunto. Sono 10 pezzi, 10 riflessioni che può fare un ascoltatore come può fare una persona qualsiasi, insomma. Bene, una cosa interessante, cioè praticamente il pensiero musicato, esatto, musicato, sì, al 100%. Sì, perché forse un disco di 50 minuti solo parlato era un po' noioso, abbiamo deciso di suonarci sopra. Assolutamente, sarebbe stata una lezione di filosofia mal digerita dagli ascoltatori. Esatto. Detto, vabbè. Allora, noi continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo, questa volta in acustico, visto che Matteo ha la sua bella chitarra, un Ovation in questo caso, mi sembra di riconoscerla. Sì, eccola, sì, benissimo. E poi Thomas, la tua voce adesso. Sì, l'ho portata. Si fa sentire benissimo, eccola qua. E quindi facciamo sentire anche quella che è la voce, sia delicata che potente, perché ci sono due registri su cui viaggia la voce di Thomas. E poi chi avrà modo anche di entrare in possesso del disco, oltre ad ascoltare la trasmissione, capirà quello che sto dicendo. Allora ci ascoltiamo un primo pezzo in versione acustica, questa volta diamo spazio a Scomodo Pensiero. Vorrei essere lontano dai incutimi rocci della mia anima, dall'istinto che mi rinnega, ruba le mie brame per darle a chi mio scomodo pensiero che dondola su di me. Questo è il mio scomodo pensiero che divora scretola libera. Smettici di gare, fermati a pensare mentre cosa sai quanto timore se devi cambiare. L'ascolto sarebbe la tazione migliore. Vorrei vedere quei dogmi cadere da morali spente, il premio è l'aldilà, mentre quegli uomini ancora non si riconoscono. Questo è il mio scomodo pensiero che dondola su di me. Questo è il mio scomodo pensiero che divora scretola libera. Scusa se gli arcobaleni esplodono, ti chiedo luce vera da conservare in un tempio di Vesta. Scusami se non ci sono angeli e ceste di fiori e favole per edulcorare la tua animalità, la tua immoralità, la tua animalità, la tua immoralità, la tua animalità, la tua immoralità, la tua animalità, la tua immoralità. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Stavo pensando che non voglio vedere Thomas arrabbiato. No, assolutamente. Moglie Utica qui a Blue Radio Veneto all'interno di Blue Time Live. Ci stanno presentando il loro nuovo lavoro che si intitola Logos, una canzone cantata qui in versione acustica, si intitola Scomodo Pensiero. Allora, i pensieri, a quanto ho capito sintetizzando, hanno un loro peso. E i pensieri a volte non fanno dormire, i pensieri ci tormentano. È necessario esorcizzarli un po'. Sì, è necessario sia esorcizzarli che anche forse anche saperci convivere. Noi infatti, tornando alla dimensione live, appunto, che noi qui noi teniamo molto, su questa canzone noi usiamo una sorta di oggetto per aiutare l'ascoltatore, appunto per farlo entrare ancora più dentro il concerto. Noi abbiamo questo taccuino che all'inizio, insomma, del pezzo io scendo tra la gente e lascio in segno di dai, adesso tocca a voi, cioè adesso scrivete anche voi il vostro scomodo pensiero. E devo dire, insomma, che qualcuno scrive anche delle cose veramente molto interessanti. Poi viene bruciato il taquino oppure... No, intanto torna sempre indietro, quindi è sempre... Un giorno magari lo pubblicheremo. Un giorno lo pubblicheremo, chi lo sa. Vuol dire che avete sempre della gente, oltre che fan, anche fedele. Sì, infatti. Ecco, sì. Benissimo. E soprattutto onesta. Dobbiamo sottolineare una cosa, sì, Flavio. Il suono dell'Ovation, che fa da pandan perfetto alla voce di Thomas. Il suono dell'Ovation ha una certa caratteristica, a me piace moltissimo l'Ovation, anche a Flavio, però l'Ovation acustica in questo istante, in questo momento, e la tua voce di Thomas che va su e poi ritorna ad essere normale, dà un certo fascino. E sul disco è molto Ivi sto pezzo, qua l'ha fatto un po' diverso da Ivi, secondo me. Ma noi, appunto, avendo anche avuto modo di sviluppare un discorso acustico e di suonare anche qualche concerto interamente in acustico, abbiamo voluto... arrangiare i pezzi del disco come su disco. Abbiamo proprio voluto rimescolare tutte le carte in tavola. Siamo ripartiti da zero, ovvero con la struttura del brano, ma abbiamo detto adesso facciamo proprio tutta un'altra cosa. Adesso facciamo tutt'altro. Bello, interessante questo. Un discorso anche coraggioso, perché uno di solito, cioè, può capitare che la gente si affezioni al momento del disco e poi senta qualcosa di diverso, può anche rimanere così. Sì, magari qualcuno che è abituato a sentirci molto più duri con l'acustico rimane un po' sorpreso. Questa versione poi di Scomodo Pensiero ha una storia particolare, perché... Puoi raccontare. È debuttata, appunto, uno dei nostri primi concerti acustici, se non il primo, era proprio di spalla una bravissima cantautrice folk americana, Mary Cutrufello. Ah, però è venuta a suonare qua. Giusto dove sei seduto tu, Marco. Esatto. Wow. ed eravamo in un locale country, quindi totalmente al di fuori del nostro range di appunto abituale. Allora anche noi abbiamo detto, cerchiamo di adattarci anche noi alla situazione. Quindi questo pezzo qua, che ha un po' un sapore fatto in questo modo qua, un po' country western, è nato appunto così, perché... volevamo adattarlo alla situazione in particolare. Ci è piaciuto e l'abbiamo tenuto così. Bene, anche a lui. Molto anche a lui. Benissimo, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che sono in piacevole ascolto di Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Stiamo percorrendo insieme quelle che sono le tappe del disco dei Maieutica, si intitola Logos. E ricordiamo che la nostra trasmissione è ascoltabile sia nelle frequenze tradizionali sia su internet. Basta entrare nel nostro sito, che è bluradioveneto.it, andare nella pagina dove pubblicizziamo l'evento di questa sera, quindi Maieutica, e cliccare proprio nel mezzo di questa notizia, c'è scritto diretta audio. Poi ricordatevi che questo link sarà modificato nel tempo per poi accedere a quello che è il podcast della registrazione della serata così come è venuta, e poi ancora con l'inserimento di alcune foto che sono scattate in questa serata. Ho detto tutto, e allora continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo per poi tornare a commentarlo insieme. Stiamo parlando di L'Oracolo, loro sono i Maieutica, Blu Radio Veneto. We'll be right back. questa concezione. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Come si diceva prima, questa musica è impossibile ascoltarla da seduti, oppure se lo devi proprio stare seduto ti devi muovere, perché altrimenti non riesci ad assorbire appieno la musica. In questo caso la musica dei Maieutica qui a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Ci siamo ascoltati questo pezzo che si intitola L'Oracolo, che è un saggio consiglio, che è una profezia che viene da un'autorità infallibile in questo caso, ma è anche una risposta a una domanda, per cui è necessario fare una domanda ben precisa per avere una risposta altrettanto tale. E poi anche perché questo l'oracolo viene chiamato un po' a difesa di quelle che sono le azioni dell'uomo e di quello che può essere il suo destino, se è vero che l'uomo può scegliere per se stesso. Allora, questa lunga parafrasi non per introdurre, perché il pezzo l'abbiamo già sentito, ma un po' per sintetizzare quella che era la storia di questo l'oracolo. Ragazzi, come vi è venuto fuori? Perché l'oracolo è, diciamo, un qualcosa di forte, sì, di interiore, sì, potente. Beh, è un pezzo che ho fatto io alla fine, sia musica che testo. Matteo, il colpevole Matteo. In questo caso sì. Sì. E in effetti è abbastanza intricato a livello concettuale, nel senso che ho voluto fonderci dentro più influenze diversissime tra loro. Abbiamo dato il nome di almeno 20 gruppi in cui si poteva affinarsi in questa... Un rock classico, sì, nel senso positivo del termine, sì. Però chiaramente non sminuire il tuo operato, Matteo. No. È un rock classico, ma quando si dice classico si dice tutto. Sì, sì, quindi... Anche perché da 40 anni che continuano a dire che l'hard rock presenta sempre le stesse cose. In realtà non sono mai le stesse, perché all'interno della stessa, diciamo, melodia o sonorità si possono trovare mille fantasie. Cioè, le caratteristiche dei mille musicisti che hanno suonato, chiaramente. Certo. Sì, beh, in questo caso abbiamo quindi una parte cantata, quindi strofe e ritornello molto ariose, molto distese, contrapposta a una parte musicale molto serrata, molto intricata, nel quale succede un po' di tutto. A livello appunto lirico, testuale, di tematica, è abbastanza difficile, nel senso che unisce citazioni bibliche, citazioni filosofiche, anche a tematiche sociali un po' più attuali, quali appunto il panopticon, il... Si entra troppo nel tecnico. Sì, no, perché appunto qua ho voluto un po' buttare dentro un po' tutte quante delle mie riflessioni. Alla fine è venuto fuori qualcosa che parlava un po' di tutto, e quindi è possibile interpretarla in centinaia di modi diversi. E l'aspetto musicale doveva essere anche questo, doveva parlare di tutto, praticamente. Esatto. Sì, quindi... anche dar spazio anche all'ascoltatore che sia appunto lui a trovare una spiegazione. Una spiegazione. Che poi, come dicevi prima, con quell'agendina che fai girare tra il pubblico, potrebbe essere presa a spunto per nuove canzoni poi. Ah beh, sì. Assolutamente, esatto. Quindi la prossima, diciamo... il prossimo disco potrebbe essere chiamato dovremmo iniziare a rileggerlo tutto quanto. Ecco, esatto. Benissimo, allora gli ascoltatori sono anche fortunati, perché quando entrano in possesso del disco trovano anche un libricino, all'interno di questo ci sono anche i testi, per cui diciamo anche facili da seguire, da cantare e da gridare. Esatto, perché come dice il bassista, lui odia comprare il CD, lo apre e dentro non ci sono i testi. E cosa vuole? Il disco bassista? No, quando, dentro deve esserci il libretto con i testi. Ah, no, beh, giusto. È inconcepibile. E noi abbiamo cercato di fare anche di più, nel senso che oltre ai testi c'è anche una piccola traccia... un breve commento iniziale. Esatto, diciamo, una linea guida, perché magari appunto tanti ci hanno detto che i nostri testi sono molto difficili, criptici, di complesso comprendonio, esatto. Ecco, però dopo quindi, alla fine uno ci arriva. Abbiamo voluto quindi dare delle parole chiave, con un sovrapprezzo possiamo venire anche a casa vostra spiegarle, suonarlo. Possiamo sederci di fianco al letto e ve le cantiamo, che bello, belle cose. Vabbè, allora abbiamo parlato di questo libricino, di questo booklet che è all'interno appunto del vostro CD, ma c'era Maurizio che è rimasto particolarmente impressionato dalla vostra copertina. Dalla copertina, adesso spieghiamo questa copertina. Adesso, lui non dorme di notte da quando ha visto questo. Sì, ma qualcuno ha citato David Lynch per la copertina. Beh, in effetti sì. Cosa mi dici? È stato leggendo un libro di David Lynch che... Acque profonde. Sì, Acque profonde, esatto. Che appunto noi avevamo già fatto fare la copertina, fatto tutto quanto, e c'era appunto questa sua citazione che diceva che per avere le idee più, paragonava le idee ai pesci praticamente. Esattamente. Quindi più vai in acque profonde, più hai opportunità di pescare pesci sempre più grandi. E infatti qua è scattato subito l'assonanza con la nostra copertina, che appunto ritrae un pesce che cerca di svicolarsi tra una serie di ingranaggi. Sì, sembrano gli ingranaggi del Big Bang in questo caso. Sì, esatto. E esala una specie di luce che prende la forma del logos. Bella, una bella cosa. Qua non c'è Roger Dean, che era un po' diverso come pittore per i dischi degli ES. Ma questo è un antenato dal pesce lanterna. Esattamente, allora, in questo caso. Sì. Va bene. Allora, impariamo sempre cose nuove. Non parliamo solo di musica, in questo caso parliamo anche di filosofia, e quindi con i Maieutica e Logos, che è il titolo del disco. Ma cerchiamo di capire anche com'è cambiata, diciamo, l'impostazione da quando siete nati e da quando è uscito quell'album che si intitolava e si intitola tuttora Ego Pensante. Ego Pensante. Sono cambiate molte cose. Beh, intanto abbiamo cambiato, cioè, c'è stato l'ingresso di Matteo, che è qui di fianco appunto. A cui avete fatto prima un esame di filosofia, no? Per sì entrare. Sì, c'era un esame scritto e orale appunto da sostenere. Sì. Ha potuto sopportare angherie. L'ha superato ampiamente, però. Sì, esatto. Si sta superando. Però lui ha detto che è già entrato, cioè era, cioè il nome c'era già, quindi non c'entra niente. Sì, sì, con Socrate. Maieutica, e Socrate è arrivato dopo. Però diciamo ha dato un grosso contributo ai Maieutica che sono tutt'oggi, insomma. E appunto portando il suo bagaglio personale, come i suoi testi, le sue musiche, e il tutto è andato ad unirsi a quello che c'era già, e quindi siamo riusciti a fare un album Logos, che è la nostra nuova carta d'identità, si può dire. Infatti lo chiamiamo come primo album di rock pensante per noi. Certo, Matteo ha portato il suo amore per il metal, ho presunto tale. Sì, beh, vero, io nasco come metallaro, quindi il mio retaggio è quello. Poi adesso... Ti hanno coniato anche da prog, ti hanno coniato in alcuni momenti. Sì, no, beh... Prog mi ha sempre appassionato tantissimo, infatti anche credo di essere un po' l'elemento più prog all'interno del gruppo, perché una roba particolare di questa band appunto è il fatto che ognuno di noi è molto diverso, non solo come musicista, come persona, ma soprattutto come ascoltatore, come fruitore di musica. Quindi per esempio con Thomas non abbiamo quasi niente in comune. Cioè, e visto io che mi ascolto De André, quindi cioè, lui ha una visione molto rock alternativa italiana, e cantautorale, esatto, che io ho solo in maniera molto limitata. Io appunto mi butto su altri fronti, e questo per ogni altro membro del gruppo è difficile riuscire a trovare dei punti di connessione. Infatti la particolarità forse del nostro sound è proprio il fatto di unire tra loro molti elementi, molte influenze che non c'entrano niente l'una con l'altra. Cioè in saletta c'è il silenzio perché non parliamo mai, perché non andiamo d'accordo, certo. Però poi suoniamo e A proposito di prog, ricordiamo anche una cosina, una bella cosina che è anche inserita all'interno del vostro sito internet, così da pubblicizzare la cosa, all'interno di www.maieutica.info, proprio nel home page c'è una pubblicità legata a un concerto che farete tra qualche giorno, quindi il 21 luglio 2013 ci sarà a San Vendemiano, andate a suonare, sì, a San Vendemiano. Quindi voi sarete parte di una kermesse musicale, esatto, molto, sì, molto lunga nel tempo, a quanto ho capito, dalle 17 in poi, e vedete protagonista oltre a voi anche Quanah Parker, che verranno da noi tra una decina di giorni, se non sbaglio. Sì, no? Sì, esatto. E poi ancora i Former Life, che è un gruppo che è poi il supporter di Aldo Tagliapietra. Quindi una costola di Aldo Tagliapietra. Una costola di Aldo Tagliapietra. E poi ancora ci sono i Prophecy, Behind the Red and Violet. Esatto. Sì, sono stati loro appunto ad invitarci a questo festival. Infatti siamo molto contenti, insomma, di far parte di questo. A parte, sì, se posso elencarti le date. Certo, certo, elenchiamole. Casualmente, insomma, a luglio siamo molto molto pieni. Domani sera per gli amici di Rovigo saremo al Castel Beer a Castel Guglielmo, all'Endinara, alla festa della birra, in apertura ai SED, tributo Metallica. E poi domenica 21, come dicevi, saremo alla prima Prog Experience Festival a San Vendemiano, alla Primula Rossa, è il locale. E poi altre date, il 27 di luglio, che è sabato, saremo al The Theater Club a Milano, per questa, anche qui è una specie di kermesse, saremo in 10 gruppi emergenti, appunto. Suoneremo lì, una cosa importante quella di Milano. Allora. Sì, sì, sì, ci va anche, spesso ci capita di fare qualche trasferta. E poi la data più importante, che vabbè, è un po' in là col tempo, però è giusto dirla subito, sarà il nostro sesto compleanno, se non sbaglio. Sì. Sì. Che lo faremo il 30 novembre al Work in Progress ad Albignasimo, in zona industriale. Bene. Benissimo, quindi ci sono molti appuntamenti, per ricordarli tutti naturalmente andate anche nel sito di Maieutica, sì, maieutica.info. Maieutica.info, dove si possono vedere tante belle cosine, compresi anche i testi. Vabbè, allora direi di passare ancora a una seconda parte acustico live qui a Blu Radio Veneto, presentando due pezzi di fila, perché sono, diciamo, brevi, soprattutto la prima parte, e però sono concatenati, poi scopriremo anche il perché. Quindi Maieutica qui a Blu Radio Veneto. Da prima ci ascoltiamo il pezzo che si intitola La Scelta, e poi 3. Thank you. dire io sopravvivo. Ti piove in tasca, cappio come sollievo. Sollievo. Tempo nocivo. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Mi ricordo che Diego Battantuono avrebbe detto potenza. Vero. Bellissimo. Allora, Maieutica qui con noi a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live. Ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e da Maurizio Calzavar dall'altra parte del vetro, nella fossa dei leoni, appunto con i Maieutica in questo caso. Comunque mi sono hanno detto prima che avevano mangiato, per cui non preoccuparti Maurizio, no. sono un po' aggressivi. Ma è bello essere mangiati musicalmente parlato da una band. Allora, allora, molto piacere. Allora, stiamo parlando di due pezzi che abbiamo sentito uno di seguito all'altro, uno si intitola La Scelta e l'altro Tre. È un po' quella che è una continuazione, perlomeno così l'ho voluta leggere, di quella che era la canzone prima, L'Oracolo, quindi dove si faceva una domanda, si dava una risposta precisa, però nella Scelta c'era quella che era appunto la continuazione, quindi la, il destino che si può in un certo senso scegliere ognuno per se stesso, e poi continua con Tre, con quelle che sono state le tre possibilità di vivere che avete dato voi nella canzone, e poi ancora nel cambiare il proprio destino, nel lasciarsi andare con le proprie idee, con le proprie decisioni, altrimenti si resta lì fermi, avvinghiati, esatto. Si può dire come il pesce della vostra copertina, esatto. All'interno degli ingranaggi del tempo. Sì, su questo pezzo abbiamo voluto appunto dare il potere di scegliere, appunto, come dico su nel pezzo, a, appunto, all'ascoltatore. Forse questo è il pezzo più esplicito, appunto, del disco, per quanto riguarda lo scegliere, il riflettere e poi prendere finalmente una decisione. Benissimo. E il vostro sito internet, che abbiamo curiosato più volte, molto colorato tra le altre cose, per cui prende subito l'occhio, oltre appunto a varie informazioni legate ai Maieutica, offre anche possibilità di vedere una vostra versione live, ma anche quello che è il video di cui non abbiamo parlato prima, legato a Sinestetica Apparenza. Questa ragazza che inizia guardandosi allo specchio, forse non si piace e quindi cerca delle certezze, come si diceva prima. Come è nato questo video? Beh, il videoclip, Thomas, abbiamo avuto la possibilità intanto di girarlo, appunto. Ma intanto ringraziamo il regista, Riccardo Melato e Paola Balasso, visto che siamo qui. Li salutiamo se sono all'ascolto. No, abbiamo avuto la possibilità, come vi dicevo, di andare al Castello di San Pelagio, a Due Carrare. Quindi una fantastica location per appunto per sviluppare questo video. E appunto, sì, tu parlavi di questa ragazza che si vede allo specchio. Sì, in realtà è quello che vede. È quello che vede in realtà lui, che alla fine si accorge che lei è quello che è. Non è nulla all'apparenza. Però è bello alla fine, appunto, perché forse il batterista che l'ha scritta credeva fosse un po' banale, appunto, parlare della storia, della classica storia finita male. È la bellezza di questo pezzo, appunto, la chiave di lettura, che è proprio la voglia del protagonista, appunto, di riaffermare la propria identità, cioè in quel lancio del quadro finale c'è tutto il senso del pezzo, cioè sì. Dimenticarsi, andare oltre e buttarsi alle spalle e dire ok, posso affrontare il mondo, posso continuare a navigare in questo mare infinito anche da solo con le mie forze. Ritornando al pezzo che avete fatto qualche minuto fa, La Scelta e Tre, sì. E Matteo ha iniziato con un giro armonico molto, orientale. A me ricordava l'inizio di certi pezzi di Led Zeppelin, solo l'inizio, assolutamente l'inizio, ma in genere tutto il pezzo è molto orientale, sì. Matteo, come mai questa bella scelta? Perfettamente d'accordo con te. Un passo dal citar. Sì, no, beh, io suonicchio anche strumenti esotici, ho fatto... Tipo? Sazzo, nell'originale infatti questo pezzo qua è suonato dal sazzo, che è uno strumento turco... Quindi l'Oriente ci vuole. Sì, che appunto lo creava l'atmosfera giusta proprio per un tipo di sound di questo brano. Ma si chiama Sazio? Sazio, scusa. No. Dopo c'ho anche un oud scritto, oud si pronuncerebbe. Che cos'è questo? È un liuto arabo. Ah, un liuto arabo. Quindi, che non ho utilizzato purtroppo nel disco, poi c'ho un po' ci di strumenti. Ma dal vivo lo suoni il liuto arabo? No. No, non abbiamo mai avuto occasione ancora di sfruttarli a pieno. Speriamo di riuscirci prima o poi, perché sono strumenti con una sonorità molto bella. Molto... Sì, decisamente, è stata molto bella anche la versione che hai fatto stasera. Sì, però, quindi... Ma questo arabo, questo oriente che sì, ho studiato musica indiana anche, quindi... in questo pezzo qua soprattutto è venuta fuori proprio questo, quindi Bene, bene, siamo, allora, siamo perfettamente d'accordo. Sì, sì, sì, quindi, venga fuori in altri pezzi, ancora meglio. No, ce ne sono, ce ne sono e ce ne saranno. Ce ne saranno appunto nel prossimo disco. Bene, bene. Maurizio, l'ufficio stampa di Maieutica mi aveva consegnato anche un libricino che scriveva così: Trascendenza. Quanto è severa la nostra ufficio stampa. E con curiosità, quindi salutiamo anche Angela e Federica. Trascendenza, un'opera di rock pensante, quindi sfogliando questa opera rock si vedono i testi di molte canzoni che sono state cantate stasera, ma si vede anche una formazione del tutto particolare, quindi una formazione non solamente di concerto rock, ma un'ambientazione più teatrale del tutto. Come si può descrivere brevemente il vostro progetto? Che poi tra altre cose è anche inserito come video una parte di questo progetto all'interno del vostro sito. Sì, c'è un teaser, una specie di anteprima. Sì, noi abbiamo iniziato appunto con i nostri concerti tra virgolette normali, abbiamo iniziato ad aggiungere elementi scenici appunto sempre per aiutare l'ascoltatore. E forse a un certo punto ne abbiamo aggiunti talmente tanti che ci è venuta voglia di fare uno spettacolo teatrale. E appunto è rimasto sempre un sogno nel cassetto, questo desiderio di poter creare una rock opera, un spettacolo. Esatto. Che fino a quando Alberto Menegazzo, il boss di Padova Arte, non ci ha fatto la proposta di appunto di suonare la sala dei Carraresi a Due Carrare. Due Carrare, sì. E poi vedo che qui oltre ai 5 Maieutica c'è un altro componente, un tastierista interviene nella serata. Beh, lo stesso tastierista che alla fine ci ha aiutato, ha dato una mano per il disco, perché appunto tutti gli arrangiamenti, gli inserti di tastiera sono ad opera appunto di Marco Zago, bravissimo tastierista, salutiamo sempre anche lui di Padova. Sì. E oltre a lui abbiamo avuto un corpo di ballo anche. Sì, appunto, ritornando al discorso esatto dello spettacolo, siamo riusciti a mettere appunto con questa occasione di fare questo live alla Casa di Carraresi, abbiamo detto perché no provare a fare un concerto un po' fuori dagli schemi, e appunto abbiamo tirato su questa sorta di opera rock, noi la chiamiamo, appunto l'abbiamo chiamata Trascendenza, che è uno dei pezzi contenuti nel disco vecchio. E appunto con l'aiuto di Nicola Lotto come narratore, esatto, Marina Ambrosio e Cinzia Voltolina appunto come ballerine, e Paola Chinello ai pennelli, siamo riusciti a mettere su appunto questo spettacolo e appunto questa specie è un concept. Sì, in pratica non ci siamo riusciti con l'album, però all'inizio con l'opera detto, rock sì. Noi non abbiamo purtroppo non avevamo tempo per comporre un'opera rock ex novo, quindi ci siamo un attimo guardati con carta e penna alla mano e abbiamo detto ok, adesso è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di creare una storia che unisca tutti quanti i pezzi tra loro. Esatto, infatti questo spettacolo è adatto a teatri appunto, quindi facciamo anche un po' di pubblicità, perché c'è sempre bisogno di teatro alternativo, per cui se i gestori dei teatri, se avete bisogno di fare qualcosa che può prendere la gente, diciamo schiodarla dai divani di casa, invitate in Maieutica nel vostro teatro, sì, ne sentirete e ne vedrete delle belle. Allora ci permettiamo ancora da New York, questo discorso un po' di anni fa, fine degli anni 60. Sì, Maurizio, siamo un po' indietro rispetto a New York, però ci stiamo arrivando un po' alla volta. Allora ancora spazio alla musica assieme a Maieutica, assieme a Logos, il loro ultimo lavoro, e quindi adesso andiamo con quella che è una lunga performance musicale dei Maieutica, questo pezzo che commenteremo più tardi. Si intitola Natale di Sodio, sedetevi tranquilli perché dura un pochettino. Eccolo qua. Thank you. androgeno, un letto insaziabile. Chi è stabile? Avevamo già come dire, dato agli ascoltatori un messaggio di tenersi comodi perché sarebbe stata lunga questa sequenza musicale. In realtà abbiamo deciso poi di fermarci prima. Se volete ascoltarla tutta, c'è una maniera. Esatto. Posso suggerirla? Prego, prego. Comprate il disco. Esatto. Comprate non voi che ce l'avete già. Un suggerimento agli ascoltatori. E quindi come si fa per entrare in possesso del disco? Thomas, Matteo. Beh, intanto venite ai concerti, così intanto beccate tutto il concerto. Perché sappiamo che in primis ultimamente è nei concerti che si dà il massimo del pacchetto musicale. Esatto, sia CD, abbiamo anche una fantastica t-shirt. Bene. Sì, così. E poi ovviamente potete scaricarlo sui portali online, da iTunes a... Tu che sei più tecnologico. Beh, c'è iTunes, volendo si può ascoltare su YouTube anche. Abbiamo un player pure sul nostro sito dove si possono ascoltare in streaming tutti i pezzi. Sì, ascoltatelo, ma non troppo, poi compratelo. Dopo 10 ascolti bisogna comprarlo. C'è anche su Spotify, ho visto che adesso vanno di moda queste piattaforme. Sì, anche perché vale la pena appunto comprarlo nella maniera originale, perché poi c'è anche il librettino, ci sono le varie. Sì, appunto abbiamo cercato di renderlo più appetibile da un punto di vista fisico. Poi l'abbiamo pagato, cioè se un po' di ritorno. certo. un minimo di ritorno. Beh, questa è una suite di 10 minuti praticamente. Sì, allora questo Natale di sodio, dove c'è il sodio con l'S apostrofo odio. Sì. È un po' forte abbinare la voce Natale con la voce odio. Infatti volevo creare questa sorta, la musica intanto di Matteo, sì, il testo è mio, appunto volevo creare questa sorta di contrasto tra una cosa così tanto delicata e così tanto dolce come il Natale e con una cosa così tanto dura come l'odio. Esatto, e appunto mi piaceva il gioco di parole, perché noi usiamo molto questi giochini di dire la parola sodio con un apostrofo, appunto, come se fosse il suo odio, quindi l'odio del protagonista. Perché infatti il pezzo parla di pregiudizio. Io all'inizio della canzone appunto uso la metafora della neve, della nevicata invernale natalizia, che appunto la neve non facendo rumore, però lei piano piano rende il paesaggio tutto bianco. Stratifica. Esatto. Sì, sì, e sì. Non vedi più la macchina, non vedi più le strade, non vedi più le case. E è quello che fa il pregiudizio. Finché cioè, succede a dicembre, noi non ce bene. Ne accorgiamo, ma è così, insomma. Quando succede ad aprile è un po' diverso. Sì, sì, lì è un po' atipico. Ecco, atipico. Sì. Allora, atipico. In questa prima fase dell'ascolto di Natale di Sodio abbiamo intervistato appunto il gruppo Art Rock, nel senso di rock d'arte, e all'interno di questo c'è del jazz, sono delle affluenze di musica classica, c'è della musica d'avanguardia, sperimentalità e anche teatralità della cosa. Sì, appunto, volevamo appunto renderla ancora più vera, come se fosse proprio il protagonista a cantarcela, quindi ci piaceva slegare appunto il cantato dai canoni appunto normali, chiamiamoli così, e quindi facendo un po' più teatrale ci sembrava la maniera giusta appunto per interpretare al 100% il quindi pezzo. Questo è il perno dello spettacolo praticamente. Sì, questo sì, sì, sì, sì. Anche perché poi comunque nella seconda metà la canzone si normalizza. Sì, appunto, e in questo caso la seconda metà, l'atto secondo come lo chiamate, esatto, voi, si intitola Prima Neve. Prima Neve, che è una stagione inventata, è una stagione che non esiste, è appunto una nuova stagione dove il protagonista diventa, si scopre, nel senso, appunto, ho detto prima che parla di pregiudizio, ma la persona a cui noi puntiamo il dito diventa lui il nostro iniziatore. Certo. Quindi anche in maieutica, a Blu Radio Veneto, una grande affermazione, non ci sono più le stagioni di una volta. Esatto, non ci sono più le mezze stagioni, soprattutto. Vabbè, musicalmente però sono stati coraggiosi, perché un gruppo indie, un gruppo alternativo, un gruppo emergente, fare una suite di 10 minuti nel 2013... non è spesso che capita, assolutamente non capita spesso, è ben difficile, quindi coraggio a voi, e avete fatto bene secondo me. Io che ho una certa età, amo particolarmente la musica di un certo tipo, e le suite erano la mia musica. È che non riusciamo proprio a farle corte, cioè vediamo che anche bello, sui pezzi normali è così, bisogna, meno di 5 minuti facciamo proprio fatica. No, ma in effetti questo dura 13 minuti e qualcosa, sì, questa, per cui è una bella suite. Allora, dunque, noi sono le 22:10 minuti, tra qualche secondo si continua con quella che è la vostra attività live all'interno della nostra programmazione serale, e quindi un'altra canzone che forse merita un cappello prima, ovvero c'è un titolo che è una sigla. Esatto, che è ADIDM. ADIDM. Esatto. Okay. Che sta per armi di indifferenza di massa. Parola difficile. Sì. un po' si lega, mi sembra, a quelle armi di distruzione di massa. Esatto, però appunto noi abbiamo voluto girare. Esatto, perché ci piace giocare con le parole, appunto usare l'indifferenza. Sì. Sì, qui parliamo di un fatto ben specifico, dove appunto gli Stati Uniti dicevano che avevano trovato queste fantomatiche armi di distruzione di massa in Iraq, e quindi con questo presupposto sono arrivati subito ad attaccare, sì, senza vedere se c'erano, se non c'erano. L'ho fatta molto stringata, insomma. Sì, sì. Poi noi ovviamente il significato può essere allargato appunto a questa indifferenza dell'uomo, appunto il fregarsene e andare comunque avanti, fare tabula rasa sulla sua strada, che sia buono o cattivo, è questo il discorso. Benissimo, allora ci ascoltiamo questo ADIDM, armi di indifferenza di massa, qui a Blu Radio Veneto, all'interno di Blu Time Live, assieme a Maieutica. Crede anche quando ti sali, esportazione di ciò che ha già fallito. Dimmi il tuo vero nome, non sei democrazia. Nai na nai na na, nai na nai na na, nai na nai na na, nai na nai na na. Non c'è memoria storica. Tutto scivola via su questo contano, non c'è coscienza critica. Tutto può succedere qui finché non tocca a te. Nai na nai na na, finché non tocca a te. na na na na, finché non tocca a te. Na na na na na, finché non tocca a te. Na na na na, finché non tocca. Si spacca la mia nazione. Come ti senti ora, dimmi, piccolo uomo, come resisti a Gallatro? Qui non c'entri, guardali negli occhi ora, guardali negli occhi ora, sempre. Guardali negli occhi ora, sempre. Guardali negli occhi ora, sempre. Guardali negli occhi ora, sempre. Non c'è memoria, memoria storica. Tutto scivola via su questo contano. Non c'è coscienza, coscienza critica. Tutto può succeder qui finché non tocca a te. Lai na na na na, finché non tocca a te. Lai na na na na, finché non tocca a te. Finché non tocca. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Allora, Maieutica qui a Blu Radio Veneto, questa interpretazione nella versione acustica di Armi di indifferenza di massa. In questa canzone, come si diceva prima, si parla di guerra, si parla di situazioni ostili, di continui inganni a cui la società deve far fronte, e poi l'uomo da solo ha un po' paura ed è complesso mettersi insieme per affrontare queste realtà, per cui rimane così, assiste silenzioso e impotente a queste cose che stanno succedendo intorno, e mentre si vive e si vivrà sempre di quelli che sono i famosi corsi e ricorsi storici, esatto, che servono per imparare, ma mai abbastanza. Un critico ha scritto giustamente, secondo me, Thomas, che all'inizio del cantato di questo pezzo evochi il vate, Giovanni Lida Ferretti, evochi il vate, il CSI soprattutto nel titolo del pezzo. Poi le cose cambiano, si allargano, però è una bella cosa evocare il vate, cosa dici? Sì, beh, mi fa solo che piacere. Beh, ad ogni modo, comunque, la versione su disco anche qua è completamente diversa da quella che abbiamo fatto adesso. Anche qua è una versione molto folk, molto appunto... Beh, io l'ho sentito il VAT in questo momento, a mio parere. Il critico l'ha scritto, ma io l'ho sentito all'inizio. La versione dopo originale è ancora più CSI, forse. Quindi un po' più VAT, insomma. È proprio ancora più... Mm. Però non c'è niente di male, assolutamente. No, no, no. Allora, Maurizio, devi sapere che, l'hai letto anche tu, ci sono diverse recensioni, moltissime positive, nei siti italiani, che parlano in maniera assolutamente positiva di questo disco dei Maieutica, e non sanno che sono di Padova. Questo è vero. È la nostra eccellenza in questo caso. Però non solamente in Italia si parla del disco, perché è apparsa recentemente anche una recensione su un famoso giornale internazionale americano, inglese. Fireworks. Ecco, esatto. Qua. Cosa ha detto di voi? Non l'abbiamo ancora vista, quindi per noi è tuttora un mistero. Però ci è arrivata una comunicazione che ne hanno parlato bene. No, bene, quindi... Magari non hanno capito tutte le parole. Sì. Ci hanno fatto anche una piccola intervista. Sì, c'è stata un'intervista, sì. Penso che ci sia anche un brano in allegato nella compilation della rivista. Oltre appunto a Fireworks, quindi... una rivista inglese. So che abbiamo avuto delle buone recensioni anche sul versante ispanico del, sì, mi pare di sì, del, letto anche del globo, se quindi in America Latina, ma anche a Cuba. E come è arrivato fino alla via internet? Via internet, sì, attraverso il nostro produttore, lo citiamo, Mirko Galliazzo, della The Fox Records, che è appunto l'etichetta sotto la quale è uscito il disco. A questo punto finisco i credits citando anche Alex De Rosso, che è stato l'uomo dei bottoni, quello l'uomo che, della stanza dei bottoni, quello che appunto ha registrato e ha permesso al disco di uscire bello così com'è, proprio a livello di suoni e di forma. Quindi proprio fonico è importante in questo caso, importantissimo sì, perché grazie a lui appunto siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo. Bene, allora otteniamo anche noi quello che volevamo dai Maieutica, ci siamo quasi riusciti, ancora una canzone da CD, in questo caso la traccia numero 3, ricordiamo che il disco è formato da 10 tracce, molte cantate, alcune solamente sonorità musicali comunque belle da ascoltarsi, consigliata sempre la cuffia, nonostante le grida molte volte di Thomas, è consigliato appunto l'ascolto in cuffia. E allora ci ascoltiamo appunto questo In preda alla fuga, loro sono i Maieutica. Rivoluzioni immaginate. fuggire di qua. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E anche questo è un brano molto complesso che abbiamo ascoltato dei Maieutica, Blu Radio Veneto. Ricordo, l'album si intitola Logos, la canzone che ci siamo ascoltati è un altro gioco di parole, In preda alla fuga, quindi uno che è stato preso che però sta scappando. Allora vediamo di capire cosa succede. Mi raccomando, non sbagliare la vocale, eh? No, no, assolutamente. Allora, è una fuga continua questa che viviamo tra ragione e pazzia, quindi l'abito bianco che sentiamo nella canzone è quella camicia di forza che mettevano, esatto, che mettevano ai pazzi, che siamo riusciti anche a, sì, trovarne una per gli spettacoli dal vivo, quindi, ah, quindi in trascendenza, sì, no, sullo spettacolo di trascendenza non c'è il pezzo, però non c'è il pezzo, nei non concerti c'è la camicia, normali, tra, sì, virgolette, sì, il pezzo è Thomas viene corredato da camicia di forza, viene scambiato per pazzo e incatenato, esatto, e... vengo incatenato dai musicisti, sì, e sì, vengo tirato un po' indietro, finalmente che si può fare qualcosa, esatto, quindi... possono picchiarmi, mi raccomando. Allora, quindi si mettono all'interno anche di questa canzone anche i reality veri, televisivi o di tutti i giorni, diciamo, per le strade, tutte le densità di reality o di falsità. Esatto. E quindi a un certo punto si sente la voglia di rifuggire da questo, ritornare a mettersi la propria, esatto, camicia. È proprio quello. C'è questo, quindi, appunto, pazzo che scappa, vuole a tutti i costi appunto scappare, perché ovviamente non è mica un bel posto, sono al manicomio. Però poi, no, quando no, si rende conto di com'è la realtà, appunto, come hai detto te, sì, fatto di cotillon, reality e quant'altro, dice, beh, quasi quasi piuttosto, sì, me ne torno indietro. Quasi quasi, Esatto, forse è meglio. Rimango io con me. Quindi la domanda, appunto, finale è, sì, ma i veri pazzi chi sono? Ah, certo, sì. Anche musicalmente la tua voce è un po' diversa in questo pezzo. Sì, ho tentato di... Sì, l'hai allargata, l'hai ristretta. Qualche volta sembrava anche un tocco femminile di voce, anche se sei sempre te, con qualche gioco da studio. Ma non so lo sai che fatto. Mi era venuta anche a me di dire, ma ho parlato prima con Thomas. C'è un ospite speciale. In realtà no, è un'altra modulazione. Ma è stato un gioco da studio, sì, che avete fatto. No, sì, abbiamo voluto su quel pezzo lì appunto intensificare e rimarcare appunto la pazzia del protagonista, che appunto gli fa una sorta di canto un po' disperato. E poi c'è la prima strofa che è molto serrata, quindi anche metricamente sembra, cioè, esatto, questo fiatone quasi che stia correndo, un po' di ansia che sì, stia che appunto accresce anche la tensione nell'ascoltatore, e dopo c'è questa parte un po' più distesa dove esprime tutta la sua pazzia, proprio sembra un po' onirico, sì, la, sì, parte, sì, centrale, sì, proprio la presa forse di consapevolezza del mondo fuori che risulta essere peggio di quello, esatto, di quello di prima. Quindi gli ascoltatori attenti hanno capito che questo disco non è solamente da ascoltare, è anche da studiare, e come diceva un noto personaggio, meditate gente, meditate, ascoltando questa musicalità, questa musica, questi testi dei Maieutica. Noi ringraziamo Thomas, ringraziamo Matteo per essere venuti qua in rappresentanza di Maieutica, appunto, e averci regalato queste chicche in versione acustica e aiutato anche ad addentrarci sempre di più nei meandri di questo disco. Grazie a voi. Salutiamo a, sì, distanza anche Roberto, che è l'altra chitarra, sì, dei Maieutica, poi ancora Luca al basso e Mirko alla batteria. Benissimo, allora adesso in finale di trasmissione dobbiamo fare una cosa. Maurizio? Come si chiama il gruppo? Maieutica. Bravissimo. Ah, sono stato promosso. Sono stato promosso. Bene. Allora, Maieutica qui a Blu Radio Veneto. Grazie ancora, ragazzi. Noi adesso salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Vi lasciamo ancora i microfoni aperti per un brano che però ci presentate prima, in anteprima. La ecco prima qua. Allora, quasi sì, assoluta, quasi, quindi... quasi assoluta, diciamo così. Quindi ci onora l'ascoltare appunto qui con i nostri ascoltatori questo pezzo. Allora, ce lo presentate? Come... Sì, il brano si intitola Maelstrom, come nella novella di Edgar Allan Poe, ed è un pezzo come da tradizione nostra, molto atipico rispetto a tutti gli altri, quindi basta hard rock, basta chitarrone sparate, è un qualcosa di più particolare, forse più da... Una ballad, possiamo no, dire. No, non proprio, non una, proprio ballad. Beh, lo sentiamo. Lo sentirete. Si avvicina molto all'originale, cioè non cambierà più di tanto la versione. La versione acustica è la sua natura di questo pezzo. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Allora noi salutiamo. Quindi Blue Time Live finisce qua. Ancora qualche minuto riservato appunto ai Maieutica. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, a risentirci. Buona serata. Vi lasciamo dopo i Maieutica con Rock Wave, l'onda del rock. Questa sera con la classifica curata e condotta da Alberto Prisco. Grazie ancora ragazzi e buona sintonia assieme alle programmazioni di Blu Radio Veneto. Stringono all'abisso giù. Nero come il mare, nero come il male, pioggia trasversale. E lo schianto dell'umano fallimento alle fiamme di un colpevole tormento giù. Nero come il mare, nero come il male, pioggia trasversale. Fragile. seguire la via. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time.